Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di come avere successo nella vita e nel lavoro. Quindi un manuale che parla di vita, parla di lavoro, parla dei modi di cui abbiamo bisogno per avere successo, per essere felici, speriamo anche, ma il titolo è abbastanza provocatorio, è l'arte di strisciare. L'autore è Paolo Iacci. Buonasera Paolo. Buonasera. Iacci. Paolo Iacci è presidente dell'Associazione Italiana Direttore Personale, è docente presso l'Università Statale di Milano. Sì. Docente di che cosa? Di comunicazione d'impresa. Comunicazione d'impresa, quindi segue le imprese, come direttori di personale sono all'interno delle imprese. E questo è un manuale che si intitola L'arte di strisciare. Ma come mai questo titolo provocatorio, intrigante sicuramente, e che dipinge un po' una realtà italiana che è fatta più di relazioni che non di meriti? È così? Questo è il vero cancro delle organizzazioni, sia pubbliche sia private, in Italia. Molte volte il merito non viene riconosciuto e si fa carriera e si lavora più per clientele che non per obiettivi. Ovviamente quando perfino la Corte dei Conti nell'ultimo rapporto dice che nella pubblica amministrazione si fa carriera grazie non al merito ma alle conoscenze, ovviamente poi non ci possiamo lamentare. Certo. Se la pubblica amministrazione funziona come funziona, ma questo, dico, vale anche per le imprese private. Cioè purtroppo. Se i cittadini sono considerati dei sudditi e non tanto degli utenti come potrebbero essere, o dei clienti, oppure delle persone che avrebbero diritto ad avere dei servizi efficienti, ma anche a dei servizi che sappiano dare anche a chi li svolge delle soddisfazioni. Invece molto spesso il lavoro è svolto più per il capo che non per l'utente, il cliente, il consumatore. Sì, io cerco, spero in una maniera divertente, ironica, sicuramente provocatoria, di descrivere le modalità con cui le clientele sorgono e funzionano dentro le organizzazioni, e credo che il punto iniziale sia nel fatto che gli italiani adorano non tanto il potere, ma gli uomini di potere. Vuol dire che mentre il potere richiede anche la responsabilità delle decisioni, certo, gli italiani mediamente questa responsabilità non se la vogliono prendere, quindi c'è una classe dirigente che rifugge dalle responsabilità e si preferisce la vicinanza all'uomo di potere di turno, accontentandosi delle briciole che cadono dal tavolo. Ovviamente un approccio di questo tipo non ci può portare lontano. Certo, e tra l'altro appunto il primo capitolo proprio parla degli italiani che adorano gli uomini di potere, ma quasi come contrappunto si dice subito dopo che l'Italia è uno dei paesi dove si sente più la mancanza di una classe dirigente autorevole. Allora gli uomini di potere ci sono, ma anche loro, anche gli uomini di potere poi sono a loro volta servili, sono a loro volta diciamo desiderosi di mantenere il proprio posto facendo altre cose che non l'efficienza vera e propria, che non il merito vero e proprio. Tant'è vero che sia la politica ma sia anche le organizzazioni sono tutte focalizzate su singoli leader piuttosto che non su delle strutture collettive di decisione, di elaborazione di idee, di prospettive complessive. Quindi c'è una classe dirigente che nel pubblico come nel privato ha ormai abdicato al suo ruolo privilegiando il rapporto col potente di turno. Valeva per Berlusconi prima, per Renzi oggi, ma vale per il grande imprenditore che viene dipinto come un eroe solitario, quando in realtà invece le imprese sono fatte da gruppi di persone che ai diversi livelli della scala gerarchica hanno compiti, responsabilità, devono decidere, così via. Ecco, e non è una cosa nuova, tra l'altro si dice spesso che gli italiani sono particolarmente bravi nel saltare sul carro del vincitore, però certo. Ecco, l'interessante di questo libro è che c'è anche un ricordo di un saggio sull'arte di strisciare ad uso dei cortigiani di Paul d'Holbach del 1813, e c'è anche quello scritto famoso di Prezzolini, dei furbi e dei fessi, Prezzolini del 1921. 1921 questo scritto, ecco, quindi è qualcosa che è un po' del DNA, diciamo, delle persone anche a livello non solo italiano, possiamo dire che certo. Non è una malattia solo italiana. No, assolutamente. Tra il resto il libro del barone di Holbach, che io riporto integralmente, quindi c'è un libro nel libro, no? È molto interessante perché il barone di Holbach era un monarchico che 30 anni prima della rivoluzione francese aveva avvertito Luigi XVI che se non avesse fatto fuori tutta la sua corte di appunto cortigiani, avrebbe determinato la sua disfatta, e la presa della Bastiglia poi 30 anni dopo l'ha dimostrato. Ecco, questa società adesso è la società della connessione, società di internet, società dei network, dei social network. È cambiato qualcosa? Sta cambiando qualcosa, visto magari come direttore del personale nell'ambito appunto delle carriere, delle progressioni, delle capacità di stare in azienda con queste nuove realtà, con questa nuova dimensione? Ma allora, la progressione dello sviluppo tecnologico è ormai incessante e sempre più decisa. Ho la sensazione che le forme stiano cambiando in maniera molto importante, ma la sostanza rimanga poi alla fine abbastanza inalterata, cioè le cordate c'erano alla corte di Luigi XVI, ci sono oggi nelle imprese, internet o non internet. Ecco, quindi questi 10 comandamenti che all'interno del libro insegnano come fare cordate, come scalare il potere, come riuscire ad avere successo nell'azienda, sono sicuramente 10 comandamenti che resteranno ancora validi a lungo, ma nella vita comune è lo stesso poi. Allora, noi abbiamo due concezioni in Italia che si scontrano sui network, una appunto clientelare e una invece positiva dell'associazionismo, come dire, sano, no? È un po' la differenza che c'è tra la raccomandazione e la segnalazione. Una cosa è se poi una persona viene assunta perché è amico del potente di turno, o una persona viene assunta perché è meritevole e qualcheduno ce l'ha segnalata, ma non nel senso del forzare le situazioni. Allora, nella vita di tutti i giorni, avere buone relazioni è una cosa sana e non patologica. Diventa patologica quando non c'è più il merito, non c'è più la responsabilità individuale. Quale sarà, Paolo Iacci, il prossimo libro dedicato a quale argomento, dopo aver parlato appunto dell'arte di strisciare nell'ambito aziendale? Ma possiamo ricordare, tra i libri scritti recentemente, c'è La filosofia del parcheggio e Il teorema del caffè. Cioè, questi libri, appunto, che peraltro sono ancora in circolazione, ancora in vendita, di cosa parlo? Qual è il filone che sta seguendo? Io sto cercando, da una parte, di evidenziare le possibilità che tutti gli individui hanno di essere artefici del proprio successo e della propria vita, e dall'altro lato cerco anche di sottolineare le situazioni paradossali in cui versa la nostra economia, le nostre istituzioni, davanti ai quali gli individui devono cominciare a prendere consapevolezza. Io dico sempre che le clientele si appoggiano sempre sulle schiene curve. Ecco, quindi avere qualche schiena dritta in più non guasterebbe. In questa prospettiva, questi libri, che sono appunto dissacranti e provocatori, nascondono però anche la fiducia nella persona che si possa in qualche modo cambiare. Non cambiare il mondo, però con intelligenza superare appunto la furbizia, riuscire a far prevalere ogni tanto almeno il merito, la capacità, la professionalità. Io sono un inguaribile ottimista e credo che possiamo fare delle cose concretamente oggi. Grazie Paolo Iacci. Ricordo, Paolo Iacci è direttore dell'Associazione Italiana per la Direzione del Personale, docente all'Università Statale di Milano, e autore del libro L'Arte di Strisciare, edito da Guerini Next. Sono 142 pagine per 13 euro. Il sottotitolo è Come avere successo nella vita e nel lavoro, la prefazione è di Enrico Finzi. Grazie a chi ci ha ascoltato. L'appuntamento con Economia in Pagina è per sabato prossimo.